4 mattino. Per non cominciare così, per favore, perché sennò ci fai impazzire. Noi che stiamo lavorando, facci coraggio, no? Non deprimerci ancora di più, forza. A casa, i bambini a casa, anzi stessero a casa anche i genitori dei bambini, va bene? Così usciamo da questa storia. Minimo ancora un mese di ristrettezze e dopo vediamo come iniziare ad allentare. Adesso state a casa, vogliamo riniziare tutto da capo? Vogliamo riniziare ad aver paura di non avere i posti in terapia intensiva? Perché tanto è quello che accade, eh? Quindi tutti a casa, per favore. Il punto è che l'accesso alla moratoria dei mutui non è concesso a quelle persone che hanno acceso il mutuo meno di un anno fa. Quindi, se l'hai acceso dopo marzo 2019, non hai diritto alla moratoria. Oh, ci informeremo un po' di più su questo dettaglio. Che non è un dettaglio, per molti, ovviamente. Sullo stare a casa, siamo perfettamente d'accordo. Devo dire, si è fatta una confusione incredibile su questa vicenda dei bambini. Oggettivamente si è fatta confusione. Circolari interpretative, parole del ministro, e poi interviene il presidente del Consiglio Conte, poi le regioni dicono la loro. Comunque ne riparleremo con Maria Latelle, con i nostri ospiti, a partire dalle 8:20. Non ci saranno solamente quegli argomenti, ovviamente ce ne saranno anche altri. Parleremo col presidente della regione Toscana, che sta affrontando l'emergenza a modo suo. E poi chiuderemo con questa vicenda dell'INPS, che domina un po' alcune delle prime pagine dei quotidiani. Sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, anche su questa vicenda dei bambini. La passeggiatina, sì o no? Alle 7:19 minuti e 55 secondi, le 7:20, va, inizia la seconda parte di 24 mattino di questo giovedì 2 aprile, ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. I titoli principali sono abbastanza nettamente divisi in due: chi li dedica all'INPS, alla vicenda dell'INPS, e chi dedica il titolo principale alla conferenza stampa di Conte di ieri. Il Sole 24 Ore è sull'INPS che apre: bonus Caporetto INPS, il governo che dice fondi insufficienti. Pubblica il Sole 24 Ore anche una lettera appello di 150 accademici italiani. Serve una strategia per ripartire, il paese va sbloccato, recita il titolo. La Repubblica, 600 euro, attendere prego, questo è il titolo dedicato appunto all'INPS, con Tridico che cerca una difesa, colpa degli hacker, il piano per un test di massa che individui gli immuni, è una delle notizie più rilevanti di oggi, ci pare, insieme a un piano per la riapertura del quale tratta il quotidiano La Stampa, ci arriveremo. L'INPS esplode, il titolo di Libero, assediato da milioni di disperati. E poi passiamo al resto, con il giornale che parla di governo disastro con il nuovo decreto, Italia chiusa fino al 13, con il portale INPS in tilt. Il manifesto che parla di colomba pasquale in riferimento alla lotta tra falchi e colombe all'interno dell'Unione Europea su come attribuire, come distribuire i fondi per l'emergenza Covid-19, il riferimento è a Ursula von der Leyen, la quale ha chiamato il presidente del Consiglio Conte per annunciare un fondo di 100 miliardi per la cassa integrazione dei paesi colpiti dalla pandemia, un primo passo avanti in questa lotta tra utilizzo del MES da una parte e il fondo salva stati, che è quello che vorrebbero i paesi del nord, e creazione di eurobond, che è quello che invece vorrebbero i paesi del sud, i paesi dell'area mediterranea. Dilettanti allo sbaraglio è il titolo della Verità: l'epidemia rallenta ma a marzo morti raddoppiati al nord. E poi a centro pagina ancora questa polemica, cani sì, bimbi no, tutti contro il ministro. Avvenire, così come il Messaggero, il Corriere della Sera, La Stampa, il Quotidiano Nazionale dedicano il titolo al decreto che alla proroga delle misure, no? Fino a Pasqua e oltre, il titolo di Avvenire. Nella fase 2, convivenza con il virus, è quello del Messaggero. Non si può riaprire l'Italia, titola il Corriere della Sera, tutto tra virgolette, sono parole di Conte. Conte, convivenza col virus nella fase 2. Anche il Quotidiano Nazionale, scusate, dedica il titolo all'INPS, corsa ai bonus, INPS in confusione. Il Fatto Quotidiano intervista proprio il Presidente del Consiglio. Non è l'ora di riaprire, decreto e manovra per Pasqua. Iniziamo, come sempre, in questa parte della rassegna stampa da qualcosa di normalmente di laterale, ma che tanto laterale non è in questo momento, perché ovviamente è sempre collegato a Covid-19. E allora, iniziamo proprio dal Fatto Quotidiano, a pagina 7. Beh, insomma, abbiamo visto l'accoglienza in pompa magna, riservata, e la celebrazione che ne ha fatta la stessa Cina delle mascherine inviate, no? Delle centinaia e migliaia di mascherine inviate all'Italia. Ebbene, 600.000 pezzi sono sbagliati, ci racconta il Fatto Quotidiano. 620.000 mascherine, che sarebbero dovute essere FFP2 tra le più protettive, ma che invece si sono rivelate un flop, inadatte al servizio sanitario, perlomeno a quello italiano. A comunicarlo, in un'email indirizzata agli ordini dei medici chirurghi odontoiatri di tutte le regioni, è stato il presidente della Federazione Nazionale FNOMCEO, Filippo Anelli, chiedendo di sospendere immediatamente la distribuzione e l'utilizzo di quanto ricevuto, informando nel contempo eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso. Si tratta appunto di un pezzo della donazione cinese di 1 milione di pezzi convogliati dall'ambasciata italiana in Cina, che avrebbero dovuto essere una riserva straordinaria per gli ordini provinciali per colmare eventuali carenze per i medici di base. E invece, come capite, queste 620.000 mascherine non vanno bene. Borrelli, il capo della protezione civile, fa sapere che insomma, questi pezzi sono sbagliati, però vanno bene per una protezione di massima e quindi in qualche modo verranno distribuite ai cittadini. Sulla questione mascherine torna anche il Sole 24 Ore, che a pagina 9 ci porta ancora sul tema della produzione delle mascherine da parte delle aziende italiane e quelli che sono un po' i blocchi italiani a questa produzione, perché l'Istituto Superiore di Sanità fa sapere che c'è stato un boom di domande, ma molte sono inadeguate. La produzione sul territorio non decolla. Se da una parte c'è stato il boom di richieste di aziende che si sono sforzate per riconvertirsi, dall'altra cominciano ad emergere le prime difficoltà per produrle, tra burocrazia e difficoltà a reperire i materiali adatti. Quello che infatti stanno realizzando le imprese nei territori sono mascherine adatte al momento solo ad un uso quotidiano, non per medici ed infermieri. In molti territori le aziende hanno cominciato a produrle grazie alle deroghe concesse dalle regioni, ma la parola definitiva in queste settimane di emergenza spetta all'Istituto Superiore di Sanità, che deve dire se la mascherina è elevata al rango di chirurgica. Al momento solo una ristretta minoranza lo è. Ieri l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto sapere di aver ricevuto oltre 800 richieste di autorizzazione e questo è positivo, insomma, tutto sommato, perché evidentemente le aziende si stanno muovendo, ma la maggior parte della produzione non è adeguata a corsie e sale operatorie. Solo 24 Ore riporta anche la notizia di queste 620.000 mascherine che insomma non vanno bene. A proposito di mascherine, ma non solo di mascherine, c'è da registrare, e qua consentitemi, allora, in parte c'è sicuramente un disagio, o dall'altra parte c'è sicuramente la politica che, come forse avrete capito, in questi ultimi giorni sta tornando con una certa prepotenza sulla scena, tra le dichiarazioni di Matteo Renzi sul tema della riapertura, Zingaretti che gli risponde e dice non è il momento di parlarne, quindi si ritorna allo scontro, ve lo ricordate, sembra un secolo fa, l'era pre-Covid, quando Italia Viva e il Partito Democratico litigavano tutti i giorni. Ebbene, forse anche questa cosa sta tornando, così come stanno ritornando gli scontri netti tra centrodestra e centrosinistra. È un pezzo di tutto questo, ma forse non solo questo, la lettera che hanno mandato, un documento ufficiale unitario, 7 7 primi cittadini della Lombardia vicini al Partito Democratico chiedono conto alla Lombardia appunto di una serie di presunte inadempienze e di ritardi in materia sanitaria. Tra i firmatari i sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, il sindaco di Milano Beppe Sala, che finora aveva evitato scontri frontali con Fontana riservandosi una critica al modello sanitario. Ebbene, qua ci sono tutti i dubbi dei sindaci, no? Quando saranno disponibili le mascherine il cui arrivo è stato promesso da tempo? Cosa sta facendo la regione per proteggere il personale sanitario e gli ospiti delle residenze sanitarie per anziani? Si stanno facendo i tamponi per i plurisintomatici e i monosintomatici come ha annunciato il governatore? Perché la regione non segue le direttive del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità che prescrivono di sottoporre a tampone i sintomatici e qualora questi siano positivi, i loro familiari e i contatti recenti? E l'ultimo quesito: perché la regione non ha ancora autorizzato l'avvio della sperimentazione dei test sierologici che altre regioni come il Veneto e l'Emilia-Romagna hanno attivato? E qua c'è la replica del presidente della regione Fontana, che proprio perché i sindaci sono vicini al Partito Democratico parla di attacchi politici, però insomma al momento risposta sul merito se ne vede. Vedremo se arriverà nelle prossime ore e attendiamo fiduciosi la risposta della regione Lombardia. Le questioni informatiche, molti titoli ci sono sull'INPS, lo abbiamo detto, ci arriveremo tra un attimo su questo caos che c'è stato con il sito dell'INPS, ma c'è anche di peggio. E il peggio sono quegli hacker che decidono di attaccare i siti degli ospedali, i sistemi informatici degli ospedali. Succede per esempio allo Spallanzani di Roma. Il Messaggero ci porta a pagina 8 il pezzo sulla polemica dei sindaci contro Fontana era sul Corriere della Sera, siamo a pagina 6, il pezzo lo firmano Maurizio Giannattasio e Andrea Senesi. Vi dicevo sul Messaggero a pagina 8 invece Cristiana Mangani ci porta su un attacco hacker allo Spallanzani, insomma in un momento delicato come questo, pirati informatici a quanto pare orientali stanno tentando di violare le banche dati sanitarie in Occidente e facendo delle richieste di riscatto in Bitcoin. L'emergenza Covid, racconta, ha messo in moto gli hacker e questa volta gli obiettivi presi di mira sono gli ospedali, proprio perché è lì che si contrasta l'epidemia. Negli ultimi giorni sono finite sotto attacco alcune strutture ospedaliere di Roma, le più in vista nella guerra al virus. I pirati della rete hanno tentato l'accesso al sistema informatico dello Spallanzani, l'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive, un blitz che fortunatamente non è riuscito grazie all'intervento dei servizi nazionali a tutela pubblica che hanno bloccato l'iniziativa dei terroristi telematici. Tra l'altro c'è anche la Spagna nel mirino, gli esperti informatici spagnoli hanno rilevato il tentativo di bloccare i computer degli ospedali del paese. A Parigi un'ora è durato l'assalto che ha richiesto la sospensione dell'accesso esterno alla posta e agli strumenti di telelavoro degli ospedali di Parigi. L'obiettivo era rendere i server inaccessibili e dunque c'è da capire, al di là del ricatto in Bitcoin, se dietro ci sia qualcosa di più. Una pausa. Continua a trasportare i tamponi di tre ospedali giorno e notte. Speriamo che tutti questi sforzi valgano la pena per fermare questo maledetto virus. Io, Simone, capisco che non siano scritti in modo impeccabile, però mi sembra chiaro, bisogna stare a casa. Penso che sia più la voglia di non capire e di attaccarsi a uno scritto che a quello che realmente bisogna recepire. Se tu a un italiano gli dai un dito, lui ti prende un braccio e poi fai questo provvedimento sui bambini, e quando un italiano pensa, se può uscire il bambino, è finito tutto, via, usciamo tutti. Oh, io non so se sia davvero così, perché poi abbiamo dimostrato in questi giorni, e i dati del Ministero dell'Interno lo dimostrano, che sappiamo rispettare le regole e le sappiamo rispettare discretamente bene. Poi ci sono, c'è un discreto numero di, fatevelo dire, di idioti che magari anche positivo al Covid-19 viene trovato in giro, e là sono scattate anche denunce penali, la possibilità addirittura di finire in carcere. C'è gente che questa regola non la rispetta, commette qualche leggerezza, poi sono singole storie che dobbiamo andare a vedere, perché una denuncia, lo sappiamo perfettamente, non è necessariamente una condanna, eh? È solamente una denuncia, una multa, viene levata una multa, però insomma poi bisogna vedere se questa multa è, per così dire, giustificata oppure no. Ci stiamo comportando molto bene, quindi non so se gli dai un dito e si prendono un braccio. Di certo, ripeto, insomma, su il discorso che faceva l'altro ascoltatore, secondo me è condivisibile, no? Dice, insomma, ragazzi, la regola è che bisogna stare a casa. Sulla questione della passeggiatina con il bambino, portarlo fuori casa, insomma, ne ragioneremo. Avremo uno dei pedagoghi più famosi d'Italia alle 8:20 ospite da noi, Daniele Novara, e ci faremo dire, insomma, quanto questo è necessario, quanto si può supplire in altro modo. Però insomma, qua a me la cosa che interessa è la confusione che si è fatta in merito a questa vicenda, no? E quindi la circolare interpretativa, e chissà che cosa, quanti italiani sanno che cos'è una circolare interpretativa e quindi hanno capito che quella circolare interpretativa era in realtà una nuova norma. Molti, suppongo. Quindi interviene la Morgese, poi parla Conte, poi le regioni dicono un'altra cosa, si arrabbiano, insomma, capite che così non se ne arriva uno. Di base bisogna rimanere a casa. Fatto sta che succedono cose come quella che racconta il quotidiano La Repubblica, già ve ne accennavo alle 6:30, è un piccolo pezzo, no? Che però dà il segnale di quello che sta succedendo. Federica, 38 anni, volevo portare fuori mia figlia, dopo aver visto quello che scrive la gente, ho quasi il terrore di farlo. Per molti chi esce con i figli è soltanto incapace di gestirli, e c'è chi in alcuni casi addirittura ha chiamato i poliziotti, per cui ci sono persone che si sono ritrovate a fare la passeggiatina col figlio magari dietro casa, e i poliziotti che arrivano e gli dicono: guardi, potrebbe tornare in casa, è meglio non esacerbare gli animi. Quindi capite che c'è una discreta confusione che circola su questo tema. La questione della riapertura, del riaprire come, quando, qua insomma, come vi dicevo, e ci arriveremo tra un attimo col nostro direttore Fabio Tamburini, c'è questa lettera di 150 accademici italiani che scrivono sul Sole 24 Ore un intervento e dicono, insomma, bisogna avere una strategia, bisogna immaginare una strategia. Il punto ci sembra che sia da cogliere, e forse in questo momento viene colto dal governo, se, come ci racconta un retroscena a pagina 3 di Paolo Russo sulla Stampa, l'idea è di procedere dopo Pasqua e per zone. Fino al 4 maggio non ce la facciamo, bisogna riaprire anche se gradualmente. Ora non lo dice più solo Renzi, ma lo pensano in molti nella maggioranza. Persino il ministro della Salute Roberto Speranza si sarebbe ammorbidito in queste ultime ore, nonostante la maggior parte degli scienziati e del comitato di esperti nominato dal governo dice che no, riaprire anche parzialmente dopo Pasqua sarebbe una follia, perché significherebbe rimettere le ali al contagio. Ma la politica valuta anche altri pericoli, come quello di una bomba sociale pronta ad esplodere, soprattutto al sud. Alla Caritas la richiesta di cibo è aumentata del 50%, e persino nella ricca Milano si sono presentati in 10.000 per ritirare i primi pacchi alimentari. E poi le minacce di assalti ai supermercati che corrono sul web e quei bancomat divelti nelle città cominciano a destare allarme al Viminale. Dunque si inizia a delineare il piano B, chiusura fino a Pasqua e poi nessun liberi tutti, ma ripresa delle attività produttive a minore rischio di contagio, magari non in tutta Italia. E quindi un'ipotesi diversa da quella che ci aveva prospettato, lo ricorderete, il ministro delle attività produttive Patuanelli, che è stato nostro ospite 2 giorni fa, ossia una riapertura per filiere, che è un po' più difficile, ma più una riapertura per zone e una riapertura dei luoghi di lavoro nei quali si è in grado di garantire alcune norme di sicurezza. Tra gli elementi che potrebbero giocare a favore di tutto questo, ne abbiamo già accennato ieri, no? Con l'ipotesi lanciata dal presidente veneto Luca Zaia di una sorta di patentino di immunità. Come si riesce ad avere, secondo Zaia e secondo gli esperti veneti che stanno guidando le scelte della regione in questo momento, questa patente di immunità? Si potrebbe avere con i famosi test sierologici, sono quelli che indirettamente ti dicono che hai avuto Covid-19, insomma che in sostanza sei immune, una sorta di patente di immunità appunto con i test sierologici. E dunque Michele Bocci sul quotidiano La Repubblica, pagina 7, ci dà un po' la misura di quello su cui si sta ragionando all'interno del Comitato Tecnico Scientifico, che poi sarà quello che guiderà le scelte della politica. Sì al test per trovare gli immuni e far ripartire il paese. Un'indagine di sieroprevalenza nazionale, detta così è un po' tecnica, ma si tratta di una strategia che potrebbe rivelare quante persone sono state colpite dal coronavirus nel nostro paese, con implicazioni dal punto di vista epidemiologico e anche lavorativo. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile hanno deciso di avviare lo studio. In questi giorni stanno discutendo su come farlo. Si tratta intanto di un modo per coordinare il lavoro delle regioni, che ancora una volta stanno partendo in ordine sparso. Toscana, Emilia, Lombardia, Veneto e altri hanno già fatto sapere di voler scoprire la portata dell'epidemia nella loro popolazione attraverso esami sierologici. Ognuna però ha una strategia diversa e non si confronta con le altre per adottare una strategia comune. Si tratta di un film già visto e che viene proiettato nuovamente. L'idea degli esperti del governo è quella di dare a tutti i governatori indicazioni su come portare avanti il lavoro, che consisterà nell'effettuazione degli accertamenti di laboratorio a un campione della popolazione abbastanza ampio da far capire in quanti sono stati, magari inconsapevolmente, colpiti dal virus. Sul mercato ci sono però tanti esami di questo tipo e non tutti sono molto affidabili, e dunque prima ci vorrà una validazione. E quindi questa è una delle strategie di ripartenza, una delle ipotesi appunto per ripartire, valutare quanti sono quelli che sono almeno momentaneamente immuni, anche perché non sappiamo, lo ricordiamo ancora una volta, quanto dura l'immunità da questo coronavirus, perché gli studi scientifici su questo fronte non sono ancora completamente chiari. E poi allora ripartire vuol dire tante cose. Sembra difficile che i ragazzi, anzi assai improbabile, ormai è dato per assodato che i ragazzi, i bambini possano tornare a scuola. Detto ciò, c'è il piano per salvare la maturità, come ci racconta Gianna Fregonara a pagina 16 del Corriere della Sera. La ministra Azzolina è decisa a fare il possibile per permettere la valutazione dei 460.000 candidati. In commissione l'unico esterno sarà il presidente. È imminente, ci racconta Fregonara, il momento di scegliere come concludere l'anno scolastico e che cosa fare di maturità ed esame di terza media, mentre ancora nessuno sa se le scuole potranno riaprire anche solo per permettere ai 460.000 maturandi di sostenere il loro esame. Il decreto necessario per modificare gli esami è quasi pronto, arriverà in Consiglio dei Ministri. Due le scelte fatte finora dalla ministra Azzolina. Almeno una prova dell'esame si farà, a meno di un tracollo della situazione sanitaria che al momento non si prevede, e a giudicare gli studenti non saranno i temuti professori di altre scuole, ma gli stessi che li hanno accompagnati negli anni delle scuole superiori, perché la commissione d'esame sarà composta solo da 6 membri interni più un preside notaio esterno. A queste si aggiunge un'altra misura per alleggerire lo stress degli studenti vista la situazione. Se si riuscirà a fare un esame con le 3 prove, i 2 scritti e l'orale, la seconda prova, quella di indirizzo, comunque non sarà nazionale ma sarà preparata dalle singole commissioni. È quello che avviene di solito per l'esame di terza media, e queste sono le cose intorno alle quali si ragiona. Vi voglio, prima di chiudere questa parte, prima di andare al traffico, vi voglio portare su due elementi, anzi su un elemento, che è, per così dire, collegato alle questioni che abbiamo raccontato in questi giorni. Abbiamo avuto anche ospite il procuratore generale antimafia Federico Cafiero De Rao. Il tema è quello della criminalità organizzata, ma in questo caso il collegamento con Covid-19 è solamente indiretto, perché per andare su altre notizie, anche qua, vi ricordate, sembrava un secolo fa che parlavamo delle intimidazioni della criminalità a Foggia. Ebbene, le intimidazioni della criminalità a Foggia, nonostante questa sorta di coprifuoco, non si fermano. La Repubblica, pagina 25, un pezzo di Tatiana Bellizzi ci racconta che c'è stato il terzo attentato a due testimoni contro i boss, è stato distrutto l'ingresso di un centro per anziani, una nuova bomba a Foggia, dunque un coprifuoco che non ferma i clan. Il traffico. Mattino. Le 7 e 47 minuti e veniamo alle note dolenti dell'INPS, di quello che è successo ieri. Ne parliamo praticamente da ieri mattina, perché i vostri messaggi sono arrivati numerosi. Al 349-238-6666, dove, se volete, potete continuare a mandarci messaggi WhatsApp, audio. Vi ricordo poi, tra l'altro, che dalle 8:20 partiremo, come sempre, anche con le telefonate 800-24-00-24. Iniziamo dalla questione dei bambini. E poi toccheremo le strategie delle regioni, quella di Enrico Rossi, del presidente, quindi della regione Toscana, e infine toccheremo proprio il tema dell'INPS. Avremo ospite Guglielmo Loi, che guida il comitato indirizzo e sorveglianza dell'istituto. Il caos bonus è sotto questa testatina che il Sole 24 Ore ne parla, e che Sole 24 Ore che dedica anche l'apertura a tutto questo, la caporetta dell'INPS, una giornata nera ieri per il sito messo a dura prova da un flusso di domande che ha raggiunto picchi di 300 al secondo, e poi dalla tarda mattinata colpita da un attacco hacker e da violazioni della privacy degli utenti, che hanno costretto l'Istituto di Previdenza a chiuderlo fino a oltre le 17. Vi segnalo su questo fronte il pezzo di Davide Colombo, a pagina 2 del Sole 24 Ore, il tallone d'Achille dell'informatica INPS e lo stress cura Italia, dove Davide Colombo ci riassume un po' anche insomma una parte delle giustificazioni, per così dire, che si possono dare all'istituto sommerso letteralmente dalle richieste. Da oggi parte l'accesso scaglionato. Siamo in linea con il nostro direttore e direttore del Sole 24 Ore, della agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, bentornato e buon giovedì. Buongiorno a tutti, buon giovedì, alla faccia del coronavirus. Eccoci qua. Allora, dunque, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata a quello che è successo ieri sul sito dell'INPS, il presidente Tridico che parla di un attacco hacker e dice, insomma, nei giorni scorsi il sito ne è stato soggetto. Detto ciò, c'è stata una delle più incredibili violazioni della privacy che si ricordino in questo paese, A me pare che ieri abbiamo assistito a una pagina gloriosa della serie Dilettanti allo sbaraglio. Quello che è accaduto era facilmente prevedibile, noi l'avevamo anche scritto. Nel momento in cui si annuncia un click day, dopo è stato smentito più volte, ma ormai nella testa delle persone, di molte persone, si era radicata non forse la convinzione, ma certamente il sospetto che la cronologia nella ricevere le domande fosse, avesse un peso poi nella distribuzione delle risorse. E quindi tutti si sono scatenati, favoriti dal fatto che la gente è a casa e quindi il tempo a disposizione ce l'ha. Era quindi facilmente prevedibile che, hacker o non hacker, il sito dell'INPS, che peraltro è un punto di eccellenza nell'informatica della pubblica amministrazione, sarebbe andato sotto, avrebbe avuto uno sbandamento clamoroso. E così è avvenuto. Ieri si è consumata la caporetto non tanto dell'Information Technology dell'INPS, quanto dell'improvvida capacità di incapacità di comunicazione dei suoi vertici. E questo, è questa la situazione dell'INPS. Da oggi parte, come si diceva, l'accesso scaglionato e vedremo cosa funzionerà e cosa non funzionerà, perché già gli stessi commercialisti segnalano che insomma potrebbe esserci qualche problema anche oggi. Vedremo come andranno le cose. Ti vorrei portare, Fabio, anche su... Allora, ormai il dibattito si è aperto su quando ripartire e soprattutto sul come ripartire, sul creare una strategia per la ripartenza, il che non vuol dire no, partire immediatamente, adesso passata Pasqua si riapre tutto e si riparte, vuol dire pensare al momento nel quale ripartiremo. Oggi pubblichiamo sul Sole 24 Ore una lettera appello a firma di 150 accademici italiani esattamente su questo, l'idea appunto di sbloccare il paese nel momento nel quale ci saranno le possibilità sanitarie per farlo. Sintetizzando in uno slogan, restare coi parchi chiusi e aprire tutte le fabbriche che è possibile aprire. A parte le battute, ho scelto oggi di aprire il giornale con questo appello, perché c'è bisogno questa riflessione di farla partire immediatamente e deve essere una riflessione che non deve assomigliare, come troppo spesso accade in Italia, a una rissa, ma a un confronto serrato da fare però da fare in tempi non rapidi, rapidissimi, perché davvero corriamo il rischio di ritrovare questo paese in pezzi. Raccontiamo sempre oggi sul giornale un'altra storia significativa: abbiamo bloccato le esportazioni dei produttori di ceramica nella zona di Sassuolo, che è un punto di eccellenza dell'industria manifatturiera italiana e rappresenta l'85% del giro d'affari. Le esportazioni valgono quasi la totalità della produzione di ceramica italiana. Noi l'abbiamo bloccata, gli spagnoli hanno dato via libera e quindi le aziende italiane in questo momento a livello internazionale perdono quote di mercato, perdono commesse, hanno i magazzini pieni e non possono rifornire gli acquirenti nel mondo, e gli spagnoli ci stanno tagliando l'erba sotto i piedi. Questo non è ammissibile. Naturalmente questo non significa non avere presente la necessità, la priorità delle misure di sanità pubblica e privata contro il coronavirus, ma non si può non porsi il problema di come, nel rispetto delle norme sanitarie, aprirci, riaprire le fabbriche. Ripeto lo slogan: parchi chiusi, fabbriche aperte il più possibile. Sì, tra l'altro insomma riportiamo alcuni elementi e alcuni paradossi, no? Sul giornale a pagina 13, uno l'avevamo già citato, questa storia dei costruttori di trattori che sono un po' entrati nel centro della polemica nelle scorse ore, perché insomma ne aveva parlato anche il segretario della CGIL, i costruttori di trattori chiusi e però l'agricoltura rimane senza ricambi. Anche qua c'è un aspetto di gestione di queste chiusure che va un po' ragionato meglio. Tra l'altro ospitiamo anche un pezzo, un intervento di Giovanni Savorani, che è il presidente di Confindustria Ceramica, esattamente sul tema che ci dicevi poco fa, l'Italia che viene fermata mentre avanza l'export spagnolo. L'altro fronte è sicuramente quello europeo, Fabio, no? Con l'Europa che fa un passo avanti, lancia un fondo da 100 miliardi, diciamo una sorta di cassa integrazione europea. Insomma, in questa lotta tra falchi e colombe, piano piano le colombe sembrano spiccare il volo. Speriamo. Su questo sospendo il giudizio. Certamente per l'Unione Europea questa è una prova decisiva. O dimostrerà la capacità di essere solidale, oppure l'Unione Europea è destinata rapidamente al tramonto. L'ho detto già, mi pare, una o due settimane fa, ma lo ripeto con forza: nessuno pensi di far fare all'Italia la fine della Grecia. Sì, qua insomma sembra che ci siano delle aperture anche su questo fronte, mi sembra, sull'utilizzo del MES, magari con delle condizionalità diverse, magari collegato appunto al Covid-19, mentre l'ipotesi Eurobond sembra tramontare anche dalle parole di Conte di ieri, mi è parso, Fabio, no? Ma La situazione è complessa e direi anche piuttosto confusa. Vedremo, tirando una riga, cosa salterà fuori. Io per il momento sospendo il giudizio. Con fiducia nel fatto che prevalgano le ragioni dell'Unione Europea contro chi sta ponendo, forse inconsapevolmente, le condizioni affinché poi l'Unione Europea possa perfino saltare. Così non si fa, non può essere un'Unione Europea che fa gli interessi soltanto di alcuni paesi, e quindi vedremo cosa salterà fuori, aspettiamo con fiducia, anche qui i tempi devono essere rapidi, certo, ripeto, è l'ultimo giro per l'Unione Europea così come l'abbiamo conosciuta. Fabio, a chiudere, se i nostri ascoltatori e lettori del Sole 24 Ore vogliono insomma, una lettura distesa in questi giorni di Covid-19, c'è il nuovo IL che arriva. È una sfida, ho scritto nell'introduzione al prossimo numero che andrà in edicola domani che qualcuno può pensare che siamo diventati matti in un momento come questo, invece no, non siamo impazziti, è anche una piccola sfida, un nostro piccolo granello di sabbia per dimostrare che anche in questi momenti di grandi difficoltà con l'epidemia che incalza non bisogna perdere la capacità di fare, di costruire, di pensare al domani. Ecco, il restyling di IL, la revisione di IL, il nostro mensile, ha questo significato, una sfida al coronavirus. E questa sfida la porteremo avanti fino in fondo. Domani il nuovo numero dunque, grazie Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, nostro ovviamente di Radio 24 e dell'agenzia di stampa Radio Core. Alla prossima settimana Fabio, ciao. Grazie Simone, coraggio a tutti. Coraggio, GR24 a tra poco con Maria Latella.